Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, a tutti buon inizio settimana da Deborah Rosciani. Oggi abbiamo il terzo appuntamento della nostra trasmissione con i lunedì del lavoro, un percorso in 5 puntate che ci sta portando ad approfondire i punti salienti della riforma del lavoro del ministro Elsa Fornero. Dopo aver dedicato spazio ai contratti a termine e all'apprendistato nella prima puntata, le forme di lavoro flessibili come voucher e lavoro a chiamata nella seconda puntata, questo terzo appuntamento invece è dedicato alle modifiche introdotte nelle norme che regolano i lavoratori autonomi e quindi il lavoro autonomo, dai contratti a progetto alle partite IVA. Sappiamo come purtroppo queste forme contrattuali pensate per la collaborazione di un professionista indipendente spesso vengano usate in modo improprio e nascondano in realtà un rapporto di subordinazione vera e propria. La riforma interviene proprio ponendosi l'obiettivo di correggere questa tendenza. Vedremo come, scoprendo cosa cambia e come dovranno comportarsi lavoratori e datori di lavoro, ma soprattutto raccogliendo le vostre esperienze rispondendo alle vostre domande. Avete sempre le consuete modalità per interagire con noi. La prima è chiamarci al numero verde 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Se ci volete scrivere potete farlo da una molteplicità di canali: gli sms al 349 238 6666, la mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook il nostro profilo è salvadanaio-radio24, su Twitter siamo a @salvadanaio24. Con noi stamattina torna Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro ed esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E abbiamo in studio l'avvocato Francesco Rotondi, partner dello studio Lab Law, specializzato in diritto del lavoro. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e a grazie. Voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, vi ho ricordato tutte le modalità per porci le vostre domande. Adesso un'occhiata molto rapida alla borsa prima di iniziare. Borsa positiva, la settimana sembra partire meglio di come si è conclusa. Più 1,10% sul FTSE MIBA, Piazza Affari, come vi dicevo nel giornale radio, oggi Milano potrebbe anche fare qualcosina di meglio, ma ci sono alcune società che staccano la cedola e l'acconto di dividendo e questa circostanza pesa sul listino per circa lo 0,2%. Comunque, in evidenza STM più 4,34% grazie ad una promozione di giudizio degli analisti della banca svizzera UBS, Fiat più 2,81%, Pirelli più 2,74%. Intorno a Pirelli c'è una grande attenzione da parte del mercato perché ci sono delle riorganizzazioni in pista per quello che riguarda appunto il gruppo, i vertici del gruppo, la holding in capo appunto a Pirelli. Luxottica più 2,71%, Impregilo più 2, Salvatore Ferragamo più 2, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, anzi più 2%, quindi questi sono i migliori titoli. In difficoltà abbiamo Atlantia che perde il 3%, una delle società che stacca appunto l'acconto di dividendo, insieme a Terna che perde l'1,83%, insieme a Mediolanum che perde lo 0,23%, l'altra società che stacca l'acconto è Tenaris. L'euro sul dollaro a 1,2771, lo spread fra BTP e Bund viaggia sui 350-352 punti base. Vedremo se questo roadshow in Kuwait, in Oman e in altri paesi appunto del presidente Monti riuscirà a convincere almeno questi paesi a comprare un po' di più di titoli di Stato e magari ad alleggerire la pressione sul differenziale fra Italia e Germania sul BTP. Allora, questo è tutto per quello che riguarda la borsa. Direi di partire subito con il nostro tema di oggi. Come vi anticipavo, siamo al terzo lunedì del lavoro e oggi parliamo delle modifiche al lavoro autonomo. Rivoluzionaria di una studentessa universitaria, aria, laureata precaria, che rispecchi fedelmente questa deprimente Italia. Sogni una carriera straordinaria, ora prendi 400 euro al mese come segretaria. Allora, per fortuna c'è anche chi se la canta un po' in studio. Questa canzone di Simone Cristicchi era questa canzone Laureata precaria, il proseguimento della storia di studentessa universitaria, appunto, le canzoni dello stesso cantante, che però ci raccontano molto bene lo spaccato nel quale vivono effettivamente i ragazzi che escono oggi dall'università. Magari le opportunità di lavoro ci sono anche, però non sempre ci si accontenta della modalità con cui un'azienda intende prendere appunto questi giovani. E allora sentiamo un po' la riforma Fornero, che tipo di modifiche ha portato al lavoro autonomo, cioè quando un ragazzo, magari ad un ragazzo, ad un giovane laureato viene proposto di collaborare attraverso il contratto a progetto, il rapporto appunto con la partita IVA, ma molto spesso appunto, come sapete bene perché ne leggiamo tutti i giorni anche sui giornali, in realtà poi questi rapporti di lavoro sono quasi in esclusiva con il datore di lavoro e quindi nascondono effettivamente una subordinazione vera e propria, quasi un rapporto da lavoro dipendente. Avvocato Rotondi, io certamente molto banalizzato il ragionamento per farlo capire agli ascoltatori, così si calano nella concretezza e possono interagire un po' meglio con noi, però mi pare che la situazione sia questa. Che cosa ha cambiato di fatto la riforma Fornero? Ma direi che ha ben rappresentato la situazione. È chiaro che da un punto di vista tecnico si possono fare dei distinguo, però andando al tema principale, direi che la riforma Fornero è intervenuta in questo ambito non andando a modificare gli istituti, cioè quindi il contratto di lavoro a progetto piuttosto che il lavoro autonomo. Che tra l'altro esiste nel nostro paese da diversi decenni. Ma devo dire che il lavoro a progetto in realtà è stato introdotto con la riforma Biagi. Prima era una collaborazione coordinata e continuativa ed era in realtà, prima ancora di essa, era una forma atipica, cioè non era presente nel nostro ordinamento, era fonte, era diciamo così un contratto di fonte dell'autonomia contrattuale. Mi spiego meglio. Nel nostro paese il rapporto di lavoro è ormai tipicizzato. Cosa significa questo? Significa che se io dovessi entrare in un rapporto, in un ambito lavorativo, io dovrò assumere una qualificazione o di lavoratore subordinato, o di lavoratore a progetto, chiamiamolo coordinato e continuativo, o di lavoratore autonomo. Non c'è più la possibilità di costituire dei contratti ad hoc. Una volta invece questo si poteva fare perché il principio dell'autonomia contrattuale presente nel nostro ordinamento dava la possibilità di concludere contratti di lavoro purché non fossero contra legge, quindi contro l'ordine pubblico e il buon costume. Con la riforma Fornero in realtà si è entrati a dare delle indicazioni ulteriori per cercare di evitare che l'utilizzo di queste forme contrattuali diverse da quella ordinaria, che è il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, possano essere utilizzate surrettiziamente per andare, diciamo così, fuori dai vincoli che quel tipo di rapporto di lavoro comporta, che non sono unicamente contributivi o remunerativi, ma sono delle obbligazioni che riguardano anche una serie di diritti nel posto di lavoro e una serie di vincoli alla risoluzione di questo contratto. La riforma Fornero interviene in un contratto, quello a progetto, e poi in una tipologia che è quella del lavoro autonomo, andando a introdurre nel lavoro a progetto una serie di ulteriori vincoli alla stipula di questo contratto che lo rendono ben più difficilmente governabile. E nel lavoro autonomo invece interviene individuando per legge delle presunzioni che fanno ritenere, laddove si dovessero realizzare, quel contratto un contratto di collaborazione a progetto. Dopodiché il salto è, trasformandolo a progetto e non esistendo un progetto perché era un contratto di lavoro autonomo, in un rapporto di lavoro subordinato. Però questo è un tecnicismo. È un tecnicismo, comunque magari avremo modo poi di svilupparlo nel corso della trasmissione. Alessandro Rotaporta, lei ne ha scritto proprio pochi giorni fa sul Sole 24 Ore, ricordando come il restyling, ce lo diceva adesso l'avvocato appunto Rotondi, della riforma Fornero sul lavoro autonomo tocca i contratti di lavoro a progetto e i committenti che usano queste forme di collaborazione devono rispettare le nuove regole per non incorrere nella conversione del rapporto appunto appunto in lavoro subordinato. Che cosa stanno facendo le aziende adesso per evitare appunto che effettivamente tutti i rapporti di lavoro aperti secondo il principio del contratto a progetto o il contratto appunto autonomo non si trasformino appunto attraverso l'istituto giuridico della presunzione di subordinazione in lavoro indeterminato, in contratto a tempo indeterminato? Perché credo che molte aziende in questo momento si stiano interrogando su che cosa fare, non se lo possono permettere tutto questo massiccio, come dire, tutta questa massiccia trasformazione. Il problema effettivamente è presente, e purtroppo devo dire che il primo impatto della riforma sta producendo degli effetti che sono diciamo in contrasto su quello che doveva essere lo spirito della norma, proprio perché la formulazione non è delle più felici, e mi spiego meglio. Dal punto di vista ad esempio del committente, quindi dal punto di vista dell'azienda, si rischia che solo per il mancato rispetto di questi paletti, di questi vincoli che menzionava l'avvocato prima, da parte del committente si rischia di vedere cassate delle forme che magari poi nella realtà effettivamente possono essere anche forme genuine, quindi magari vedere disconosciuta una partita IVA solo perché non si rispettano i vincoli introdotti, o vedere disconosciuto un contratto a progetto perché anche qui non si rientrano i canoni previsti dalla riforma, ma magari poi nella realtà siamo di fronte a delle forme che invece hanno tutti i requisiti dell'autonomia. Dall'altra parte, dal lavoratore, vedo, mi è capitato anche qualche caso specifico dove alcuni lavoratori a progetto, in particolare una partita IVA, adesso non posso far nomi per discrezione, ma di una grossa azienda a livello nazionale, mi dice anziché la norma darci una mano, ci sta peggiorando la situazione perché il committente sta cercando degli artifici. Quindi in questo caso qui era un caso di una partita IVA che lavorava in azienda, quindi certo, un contratto chiaramente subordinato, e adesso cosa hanno proposto al lavoratore? Hanno proposto di lavorare da casa, quindi cioè andando addirittura, anziché migliorare le tutele, a peggiorarle. Per cui vediamo che la norma, la riforma Fornero, sta effettivamente producendo degli effetti che sono un po' paradossali e vanno contro quello che doveva essere invece l'obiettivo d'altronde primario. D'altronde è un impianto legislativo che è stato frutto anche di un di una trattativa estenuante, chiaramente, con tutte le parti in campo, per cui evidentemente dovevano essere accontentate tutte. Io ci metto subito un caso pratico di un nostro ascoltatore, anzi di una nostra ascoltatrice, che effettivamente ci racconta che cosa può succedere a chi da anni viene impiegato appunto secondo il contratto di lavoro autonomo, perché qui abbiamo, se non sbaglio, una partita IVA. Che cosa sta succedendo adesso al figlio di Maria Pia, dalla provincia di Varese, buongiorno, che appunto per anni ha lavorato secondo questa modalità, e adesso che cosa sta succedendo a suo figlio Maria Pia? Sì, pronto, buongiorno, sì, è tutto vero quello che ha detto il signore, probabilmente si tratterà della stessa azienda, non lo so, comunque è vero, mio figlio dopo 8 anni di lavoro, lui e altri, a fine anno vengono messi fuori, praticamente gli si prospetta questa cosa qui, devono lavorare o devono mettersi un'azienda per conto loro fuori o comunque sono a partita IVA mio figlio, e a fine anno viene messo fuori dopo 8 anni dove hanno lavorato di più dei dipendenti stessi, perché non c'era sabato, non c'era domenica, non c'era orari, c'erano contratti costantemente da rinnovare, per cui uscire, e adesso vengono messi fuori. Quindi queste persone, prima di prendere, di fare certe leggi, andassero a vedere la vita reale, che cos'è. La vita non è sulle carte, su quello che loro decidono sulle carte, loro decidono sulla pelle dei ragazzi, che sono veramente, non hanno tutele, non hanno niente, perché pensano soltanto ai lavoratori delle grandi aziende, della Fiat e di questi, e tutti questi ragazzi È giusto anche che ci si interessi naturalmente anche di quei lavoratori, Maria Pia. Senta, le voglio chiedere solamente in che settore lavora suo figlio, e soprattutto adesso con questa prospettiva di chiusura di questo rapporto di lavoro, che scenario nuovo si apre per il suo ragazzo, che comunque poi è anche grande, 38 anni. Stanno valutando, per ora è una cosa che non lo sa neanche lui, perché è così, lui. Posso chiederle se suo figlio ha fatto un tentativo per trasformare questo rapporto di lavoro, per dimostrare che, avendo lavorato quasi esclusivamente per questa azienda, aveva tutto sommato una subordinazione sottostante? Sì. Lo ha fatto? Lui era nella grafica, mio figlio. È nella grafica comunque, quindi Non so. No, ha provato a chiedere all'azienda, ma io per 8 anni ho lavorato sempre per te, sei stato il mio unico datore di lavoro, anche se c'era una partita IVA, perché non mi assumi? Oppure ha avuto la tentazione? No, questa è proprio una cosa assolutamente da escludere, non se ne parla proprio. Maria Pia, grazie, sento i miei consulenti che cosa ne pensano. Avvocato Rotondi, lascio la parola, non aggiungo altro. Credo che questo sia un esempio tipico di quello che accadrà, però ahimè di quello che è sempre accaduto. Attenzione che la riforma Fornero non è che ha concepito qualcosa che in natura non esistesse e non esisteva prima. In realtà ha tradotto in una norma quello che la giurisprudenza ha sempre indagato per verificare la bontà di un contratto autonomo rispetto al contratto subordinato. Cioè, una volta si chiamavano indici di subordinazione quelli che la giurisprudenza andava a indagare allorquando, come nell'esempio della telefonata, un ragazzo, un lavoratore, andava innanzi al giudice del lavoro e, dichiarando quella che era la propria attività e le modalità con la quale eseguiva quell'attività, riteneva sussistente un rapporto diverso da quello formalizzato. E la giurisprudenza ha sempre individuato questi criteri, la continuità del rapporto, l'introduzione all'interno dell'azienda, l'organico. E uno degli elementi fondamentali era proprio quello della, diciamo così, analogia fra l'attività svolta come consulente, come partita IVA, come collaboratore a progetto coordinato e continuativo con quella che era l'attività all'interno della la monocomittenza. Cioè, sono tutti elementi che venivano indagati anche prima della riforma. Qual è il concetto che ad alcuni ha dato da pensare? Cioè, il tradurre un'analisi giurisprudenziale che era evidentemente foriera anche di una prospettiva diversa da parte dell'azienda o del committente all'interno di una norma non consente nemmeno l'assunzione del rischio. Cioè, le imprese prima davano adito a determinate forme contrattuali, a volte anche ben consapevoli dell'essere a margine, al limite, borderline. Ma assumendosi un rischio rispetto al quale si poteva magari avere qualche elemento di difesa. Questa azienda, ad esempio, non se ne vuole più assumere, perché mi chiedo qual è la ratio di lasciare a casa questa persona e non continuare, non rifare un altro contratto a partita IVA. La ratio è quello che le dicevo prima, perché se questo ragazzo, non voglio istigare ovviamente alla causa, però è evidente che esempi come questo dicono che quei contratti non sono genuini. Cioè, adesso possiamo criticarla o meno questa, questa legge, però la legge è un fatto giuridico, non è un fatto di mercato. Il mercato è un'altra cosa. Ma immaginare che ci possa essere un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione a progetto per 8 anni all'interno dell'azienda senza assunzione di un rischio imprenditoriale, che è quello che fa la differenza fra autonomia e subordinazione, e con una continuità di rapporti all'interno di un contesto organizzato e organizzativo come quello dell'impresa, mi sembra un fuor d'opera. Ci fermiamo, abbiamo la nostra prima pausa, poi ritorno con Alessandro Rotaporta, con il nostro consulente del lavoro, per andare ancora al dettaglio nella definizione specifica magari del contratto di lavoro a progetto, perché ci sono tutti elementi molto precisi che lo definiscono e che lo identificano. Poi sentiremo anche Giuseppe da Torino all'800240024. Ci sentiamo tra pochissimo. Salva Danaio. Che cosa vi succede, ragazze? Avete problemi con l'orario? Volete che vi cambio il turno? Non so, problemi col fidanzato, con la famiglia, problemi di salute che non avete il coraggio di dirmi. Noi abbiamo fiducia in voi, ma se voi non credete in voi stessi. Avevo promesso a Claudio 2000 appuntamenti per questo mese. Credo che ne abbiamo fatti poco più di 1500. Ma avete profondamente delusa. Che volete diventare nella vita? Niente? Volete essere niente? Laureata precaria, con lo zaino pieno di progetti un po' campati in aria. È il secondo tempo della storia di una studentessa universitaria. Tesi di laurea col pancione. Abbiamo ripreso sia Simone Cristicchi, ma soprattutto abbiamo ripreso anche un film che utilizziamo ormai in via quasi esclusiva, in un rapporto di monocommittenza, oserei dire, quando appunto affrontiamo il tema della riforma del mercato del lavoro. È tutta la vita davanti, il film del 2008 di Paolo Virzì, che racconta proprio il mondo del precariato italiano, e per chi lo ha visto se la ricorderà, la protagonista Marta, appena laureata con lode in filosofia, cerca di ottenere un posto di lavoro come ricercatrice. lavoratrice, nell'attesa deve accontentarsi invece di un lavoro part-time, lo trova presso il Multiple, questa azienda che commercializza un costoso elettrodomestico multifunzione tramite ragazze addette al call center. Nello stralcio del film che vi abbiamo proposto c'è tutta quella fase di motivazione appunto di Sabrina Ferilli, che è la coordinatrice di questo gruppo, ma più che altro le spaventa. In realtà non sappiamo se all'interno dei call center funzioni così, di fatto sappiamo che molto spesso appunto gli operatori di questi call center sono operatori che lavorano in via esclusiva per queste strutture, ma hanno appunto dei rapporti di lavoro o a partita IVA o a progetto. Su queste situazioni ci ritorneremo tra poco, perché abbiamo proprio anche la testimonianza di un settore che impiega tipicamente professionalità secondo queste forme contrattuali. Volevo però ritornare per un attimo ad Alessandro Rotaporta, perché volevo spiegare magari quali sono le caratteristiche della nuova fattispecie contrattuale secondo la riforma Fornero del lavoro a progetto, perché per definirlo appunto bisogna che abbia proprio delle caratteristiche precise Rotaporta, che venga definito specificatamente un progetto. La questione del compenso è anche molto importante, e poi esatto, deve essere molto ben definita anche l'ipotesi del recesso da un contratto di questo tipo. Sì, la riforma recepisce alcune indicazioni ormai consolidate da tempo, indicazioni sia di prassi che orientamenti giurisprudenziali. In particolare sul discorso del progetto va appunto a ribadire la legge 92 che il contratto deve avere un progetto specifico collegato a un risultato finale, e il progetto non deve consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, quindi deve essere un progetto autonomamente individuato dal committente. Poi è stato appunto introdotto il vincolo del compenso minimo, che dovrà essere determinato da contratti collettivi specifici che eventualmente verranno stilati dalle parti sociali, ovvero deve essere riferito ad analoghe professionalità individuabili nei contratti collettivi nazionali applicati al lavoro subordinato. Quindi c'è proprio un avvicinamento, una traslazione di questo rapporto verso la sfera subordinata. E poi il punto del recesso, che non è più lasciato all'autonomia negoziale delle parti, ma è possibile solo per giusta causa e da parte del committente, anche in caso di inidoneità professionale del collaboratore. Tutto questo si innesta poi sui regimi di presunzione introdotti dalla riforma Fornero, come diceva prima l'avvocato Rotondi, differenza rispetto al passato, ad esempio, che in mancanza del progetto c'è la riconduzione con presunzione assoluta, quindi senza possibilità di prova contraria da parte del committente, c'è la riconduzione direttamente del rapporto al lavoro subordinato, presunzione che invece prevede la prova del committente nel caso in cui la modalità di svolgimento sia analoga a quella dei lavoratori subordinati eventualmente presenti in azienda. Quindi bisogna fare conto con questi regimi di subordinazione, dei regimi di presunzione che possono far scattare addirittura, anche da un punto di vista legislativo, quindi diretto, la riconduzione del rapporto nell'alveo del rapporto subordinato. Naturalmente tutto questo impianto ha effetto sulle collaborazioni instaurate da metà luglio in avanti. Rotaporta. Sì, non è stato previsto un periodo transitorio, ma tutti i contratti stipulati dal 18 luglio di quest'anno rientrano già nelle nuove regole stabilite dalla riforma, quindi non è stato previsto un arco di sistemazione come ad esempio è stato fatto per le partite IVA, dove c'è tempo 12 mesi eventualmente ad andare a fare delle correzioni sui rapporti esistenti. Per il lavoro a progetto l'entrata in vigore delle nuove norme è stata immediata. Allora, ho un altro ospite, tra poco ve lo presento e sentiremo appunto come funziona all'interno di un settore che impiega largamente operatori secondo questi standard contrattuali. Però prima una persona, un ascoltatore appunto che è in attesa da un po', Giuseppe da Torino, volevo fargli raccontare anche la sua testimonianza. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Niente, io al 18 luglio ho dovuto lasciare a casa 25 persone licenziate perché era scattata quella legge famosissima e stupida del ministro Fornero, e questi personaggi, perché non potevamo erano gestivano in proprio completamente tutto quanto il nostro apparato che avevamo stabilito con delle aziende in Torino. Che in che settore lavora Giuseppe? Ci spieghi come impiegava? No, vabbè, allora mi spieghi come impiegava queste persone e come mai addirittura brutalmente le ha dovute lasciare tutta casa? avevamo, la ditta veniva passiva di conseguenza, perché avevamo un contratto con le aziende di Torino e in questo modo potevamo sostenerle. In altro modo non potevamo sostenerle perché venivamo a pagare quasi il doppio, perché i contributi, cose varie, il TFR, il tredicesimo, il quattordicesimo, eccetera, non era possibile sostenere le spese. E allora abbiamo fatto una riunione, abbiamo tutti quanti detto: ragazzi, mi dispiace, ma da domani. Ma erano delle partite IVA, Giuseppe? No, dei contratti a progetto? Associati in partecipazione. Ecco, perché voglio capire come funziona anche questa modalità contrattuale. Giuseppe, la ringrazio. Avvocato Rotondi, ce la può spiegare lei? Ma l'associazione in partecipazione. L'associazione in partecipazione è un contratto molto particolare, è un contratto poco usato. Normalmente viene utilizzato per esempio nelle associazioni professionali, negli studi professionali di avvocati piuttosto che commercialisti e quant'altro, perché il lavoratore, cioè che diventa associato in partecipazione, è possibile ricondurlo ad una vita associativa e soprattutto ricondurre la sua attività anche a una divisione di utili collegati all'oggetto della sua prestazione, risultato che tende a prendere. È meno usata ovviamente in tutte le attività che possono essere quelle di società costituite, di capitali o meno. Perché c'è stato questo intervento duro della Fornero? Perché evidentemente, non è sicuramente il caso del nostro ascoltatore, questa modalità viene utilizzata per scavallare tutta la serie di problematiche che derivano invece da un rapporto ordinario. Però mi chiedo adesso, io naturalmente faccio affidamento sulla buona fede di Giuseppe, ci mancherebbe altro, però averle lasciate proprio esattamente il 18 luglio tutte quante a casa significa che comunque lui temeva, è un danno per la sua azienda, un danno per queste persone, ma temeva che avessero l'opportunità di far scattare la presunzione di subordinazione, sì, perché, che evidentemente allora il rapporto di lavoro era di un certo tipo. Beh, perché in realtà la Fornero ha introdotto anche un elemento oggettivo, che è quello numerico. Vado a rileggere intanto che parlo. Il numero, dalla 18 luglio in avanti, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associati. Quindi ha introdotto, diciamo così, un elemento oggettivo oltre al quale è difficile andare. Però mi permetto di spezzare una lancia a favore di questo ministro, che ogni tanto è anche oltremodo vituperato. Il concetto che sta dietro l'associazione in partecipazione deve essere in linea con l'associazione in partecipazione, ci deve essere un riferimento alla divisione degli utili che quell'azienda o quell'associazione poi va a fare alla fine dell'anno, e ci deve essere un minimo di collegamento fra quegli utili e gli obiettivi. Questo lascia intendere che è impossibile arrivare a un'associazione in partecipazione quando non è identificabile la prestazione individuale all'interno di un contesto più ampio, e quindi tutti i casi di società, di capitali o meno, ma che hanno come attività finale la produzione di beni o servizi, mi sembra abbastanza difficile. Quindi questo datore difficile. Di lavoro, ci sembra di capire, fosse nella difficoltà di poterlo dimostrare, quindi ha dovuto lasciarli. Ha parlato di appalti, credo che sia molto difficile. Ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio. Saluto nel frattempo l'avvocato Marco Recchi. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Segretario generale dell'UNIREC, che è l'Unione Nazionale delle Imprese di Recupero Crediti. A tra poco. Salva Danaio. Quando c'erano le manifestazioni ogni tanto mi ci portavano, a me mi piaceva un sacco, mi divertivo tantissimo perché era una festa. Erano belli, erano forti, erano allegri. Lì anche l'ultimo arrivato si sentiva invincibile, perché se toccavano uno, la toccavano tutti. E questa è una sensazione... retorica. Dici? Sì. Abbastanza retorica, anche un po' anticamente patetica. E i tuoi colleghi alla Multiple che cosa sono? Modernamente patetici? No, perché l'altro ieri, miracolo, uno è venuto in ufficio, miracolo. Mi ha detto: ma se il team leader pensa che possa motivarmi, può non darmi uno stipendio? Oppure un altro mi ha detto: posso andare al bagno due volte durante il turno o è illegale? Illegale. Ho detto proprio così. Laureata precaria, con lo zaino pieno di progetti un po' campati. L'ultimo pezzo del film Tutta la vita davanti di Paolo Virsi, abbiamo sentito questa conversazione tra l'altro protagonista Valerio Mastrandrea, appunto, e la protagonista invece Marta. Mastrandea è un sindacalista, le prese con questo particolare spaccato del mondo del lavoro. Diciamo che la riforma Fornero quantomeno non disciplina le pause in bagno, punta a qualcosa di più alto e più significativo. Allora, i nuovi contratti di lavoro autonomo, come sono disciplinati, appunto, che cosa cambia sia per il lavoratore che per le aziende? Questa mattina abbiamo dato un'infarinata di tutto attraverso le testimonianze anche dei nostri ascoltatori. Prima di sentirne altri, vorrei ascoltare invece Marco Recchi, l'avvocato Marco Recchi, il segretario generale dell'UNIREC, l'Unione Nazionale delle Imprese di Recupero Crediti. Questo è un settore che tipicamente impiega, per esempio, presso i call center, che sono appunto quei ragazzi che chiamano a casa qualora magari qualche bolletta fosse rimasta un po' indietro, se un prestito in banca non viene pagato regolarmente, l'azienda di Recupero Crediti chiaramente si impegna nel recupero di queste somme. Lo fa attraverso anche questi operatori di questi centri servizi, questi call center appunto che fanno questo. E tipicamente i contratti di lavoro sono questi, avvocato Recchi, no? Le partite IVA o i contratti a progetto. Però so che voi, insomma, vi siete un po' anche spaventati di fronte al nuovo impianto della riforma Fornero. Secondo la vostra preoccupazione, molti lavoratori presso questi call center potrebbero far valere la presunzione di subordinazione, perché lavorano quasi sempre esclusivamente per un'unica società, non per più società, non c'è una pluricommittenza, ma quasi sempre una monocommittenza, per esempio. Sì, evidentemente il problema che lei ha sollevato è un problema complesso. Quello che va detto però è che le agenzie di recupero crediti, che poi svolgono la propria attività attraverso il recupero telefonico del credito, quindi con gli addetti che fanno questa attività, o il recupero domiciliare, inquadrando spesso questi lavoratori con demandati, con rappresentanti, quindi rapporti a partita IVA, ecco, sono società specialistiche, non sono dei call center generalisti, quindi evidentemente nel nostro comparto noi riteniamo che ci sia un uso legittimo di questi strumenti anche alla luce della riforma, perché peraltro la riforma è vero che prevede l'obbligatorietà di un progetto, ma non è che lo abolisce. Certo, poi dice che nel contratto a progetto bisogna che non ci sia una mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa, ma evidentemente qualora vi fosse un progetto degno di questo nome, in tutti i settori della produzione, quindi anche nel recupero crediti, l'utilizzo dello strumento del contratto a progetto è uno strumento legittimo. Anche perché guardi che peraltro, ma il progetto del recupero crediti qual è? Abbiamo questo bel progetto di recuperare un tot di somme entro un determinato lasso di tempo? Così per capire. Sì, anche perché effettivamente in questo caso quello che rileva nell'attività del lavoratore non è il tempo, perché stare seduti davanti a un telefono per un'ora, per due ore, e non telefonare o non ottenere dei risultati di recupero, evidentemente non è una cosa che nel nostro settore può consentire a un'azienda di rimanere in piedi, visto che la commessa prevede il pagamento all'azienda sulla base del recuperato. E quindi evidentemente quello che rileva nell'attività di recupero telefonico è il come, è la modalità, è la professionalità dell'addetto, per cui evidentemente questi caratteri di professionalizzazione degli addetti nelle nuove professioni sono rilevanti. Noi non possiamo, credo, più pensare che nel mondo dei servizi, in particolar modo in quello del recupero crediti, la soluzione sia sempre ed esclusivamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato basato sul compenso orario. Quindi, perché avvocato ci sono Recchi, tante professioni, sì. No, mi faccia concludere, sì. La prego, dove ci sono appunto tante professioni dove si preferisce dell'altro, ma non solo lato azienda, anche lato lavoratore, perché il lavoratore meritevole è capace di guadagnare anche molto di più di un dipendente se è bravo a recuperare. Però lei è capitato, per esempio, di conoscere qualche azienda di quelle che associate che sta facendo, come ha fatto l'ascoltatore di Torino in precedenza, anche se lui aveva, tra virgolette, impiegato questi lavoratori secondo l'associazione in partecipazione? Ne state lasciando a casa molti nel timore? Ma guarda, che ho capito la domanda e penso che personalmente io ritengo che la paura non sia mai un buon motivo per interrompere un rapporto di lavoro. Allo stesso tempo quello che si rileva però è che la mancanza di un regime transitorio fa sì che effettivamente ci siano da parte delle imprese dei fondati motivi di temere magari un utilizzo strumentale della norma. Per evitare questo, nel nostro settore noi abbiamo dato subito come associazione di categoria chiare indicazioni per quanto riguarda il regime delle proroghe dei contratti a progetto in essere alla data di entrare in vigore della norma, e allo stesso tempo abbiamo da subito iniziato a interloquire, a parlare, a confrontarci con le altre parti sociali, con i sindacati, per trovare delle soluzioni ai problemi che sono stati aperti. È inutile nascondercelo dalla riforma, in particolar modo per i lavoratori a progetto e per le partite IVA, perché degli elementi di novità rilevanti ci sono. Però ripeto, devo chiudere, avvocato. Sono nove, sì. Guardi, un secondo solo per sì, dire che non riesco a sentire più gli ascoltatori, incontenibili orecchi, sì. Tra cui la nostra, che meriterebbero appunto di rimanere tali, nuove professioni. Grazie. Grazie, avvocato Orecchi, grazie molte. C'era una domanda di Alberto da Roma che avrebbe voluto chiedere: a una partita IVA deve proporre lui la modalità contrattuale al suo potenziale cliente, quale proposta conviene fare? Magari lo sento, un secondo solo, Alberto. Potenziale cliente in che senso? Al suo potenziale committente? Sì, salve, io lavoro prevalentemente per il settore non profit, nell'ambito del marketing, comunicazione e fundraising. Per poter tutelare il mio introito netto mensile, io nella maggior parte dei casi devo proporre appunto di essere pagato sulla mia partita IVA. Alberto, no, guardi, purtroppo sente, sta arrivando la sigla di chiusura, non riesco ad ascoltarla. Allora, io intanto vi prometto che ritorneremo su questi argomenti, faccio un altro ciclo di 20 puntate, naturalmente per accontentare tutti. Ci scriva Alberto, le risponderemo, ci cioè daranno una mano sia a Rotaporta che l'avvocato Rotondi senza meno, così come lo chiedo anche a Massimo da Roma, a Marco da Pordenone e gli altri ascoltatori che non sono riusciti.